Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, Guardie o Ladri. Abbiamo cominciato un viaggio nella memoria per cercare di capire, a 17 anni di distanza dall'omicidio di Giovanni Falcone, della moglie e della sua scorta, quali siano le sensazioni che oggi si vivono in Sicilia, qual è lo stato di governo di Cosa Nostra, quali sono le reazioni della società civile. Insomma, a distanza di 17 anni, come e cosa dobbiamo fare per mantenere alto il ricordo di un magistrato che ha dato la propria vita non solo a se stesso, ma soprattutto al popolo italiano. Siamo partiti cercando di capire con il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, Roberto Alfonso, quale sia la forza di Cosa Nostra oggi in Sicilia. Abbiamo sentito ieri Roberto Scarpinato, della Procura della Repubblica di Palermo, abbiamo ascoltato la sua testimonianza. Oggi, 22, il giorno prima dell'anniversario di questa tragica morte, colloquiamo e siamo a parlarne con Maria Falcone, la sorella del giudice Falcone, che anche lo scorso anno è stata nostra ospite in questa trasmissione. Signora Falcone, buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei partire con lei da una domanda insolita, perché probabilmente in questi giorni tutti noi giornalisti massacreremo di chiacchiere e di parole chi ha ricordato da vicino quel tragico momento. E io invece vorrei partire dall'albero Falcone, ma in questo senso, visitando il vostro sito, e lo ricordo a tutti, è fondazionefalcone.it, sull'home page, al di là dell'albero Falcone stilizzato, c'è il richiamo ad un bando di concorso a 10 borse di studio che voi avete indetto. Ecco, parliamo di queste borse di studio, signora Falcone. Una delle finalità essenziali della Fondazione Falcone è quella di divulgare la cultura antimafia un po' nelle scuole di tutta Italia. Proprio stasera alle 4:30 di pomeriggio partirà da Napoli la nave della legalità che arriverà a Palermo domani mattina 23 maggio. È una nave che raccoglie tutti i ragazzi e quindi io sto cercando con la fondazione di portare avanti quella che era una delle finalità, una delle idee più fondanti del pensiero di Giovanni, cioè che la mafia si combatte attraverso la cultura, cioè è sempre necessaria, fondamentale la repressione, ma essendo un fatto culturale, un fatto di abitudini, di atteggiamenti, di mafiosità, e proprio combattendo nelle nuove generazioni quelli che sono i disvalori della mafiosità, si può continuare a combattere validamente la mafia. Diciamo, un nostro grande scrittore palermitano, Bufalino, aveva detto che la mafia sarebbe stata sconfitta da un esercito di maestri elementari. Appunto per questo, partendo dalle elementari ma arrivando all'università, come ogni anno, non è soltanto quest'anno, ma ogni anno, sì, la Fondazione Falcone, per una legge che è stata fatta dall'Assemblea regionale nel 93, cioè all'indomani della morte, un anno dopo della morte di Giovanni, assegna dei giovani universitari delle università siciliane, essendo la regione quella che le assegna, diciamo, dal punto di vista economico, ma siamo noi come comitato scientifico che curiamo la realizzazione di queste borse di studio date a 10 ragazzi che si distinguono negli studi giuridici. Ecco, io vorrei proseguire su questo filone e vorrei chiederle che effetto le fa sentire che in un recente sondaggio condotto a Palermo il 47% degli studenti di alcune scuole superiori non ha mai sentito parlare in vita sua né di Gaetano Costa né di Rocco Chinnici. Lo ricordo brevemente ai nostri radioascoltatori, anche ai più giovani, che sono stati due magistrati assassinati nel 1980 e nel 1983. Che effetto le fa Questa percentuale, per carità, che non sarà ovviamente rappresentativa di tutto, ma è comunque significativo, anche perché è forse più raccapricciante scoprire che il 22%, quindi una percentuale elevata, crede che Costa e Chinnici siano stati addirittura dei capi mafia. Che senso le fa sentire questo? Beh, questo è il classico pugno nello stomaco, perché per me, che ho dedicato la mia vita all'insegnamento di tutta quella che è la storia dell'antimafia, perché io vado in giro in tutte le scuole d'Italia, ma la cosa strana è che poi, naturalmente, purtroppo magari vado più nelle scuole dell'Italia, non dico meno, ma in Sicilia. Insomma, il mio lavoro va in tutte le classi, però magari alle superiori, pensando che già si è fatto tanto, non arrivo anche a farle tutte. Indubbiamente, specialmente a Palermo, i due personaggi che sono sempre ricordati sono Falcone e Borsellino, anche se noi nella nostra città, in quelli che furono chiamati gli anni della mattanza, sì, della mattanza siciliana, abbiamo avuto martiri come a Pio La Torre, certo, oltre ai magistrati, un generale come Carlo Alberto Dalla Chiesa, abbiamo avuto commissari di polizia, Mentana, Giuliani. Sì, certo, l'elenco è enorme. È enorme, infatti. Enorme. E purtroppo io credo fermamente nell'importanza di fare scuola su questi argomenti. Assolutamente d'accordo con lei. Ma non posso farla solo io. Assolutamente. Molti insegnanti tralasciano, pensando e presupponendo che certe cose si sappiano. Invece io, quando vado nelle scuole, innanzitutto porto un documento, diciamo un filmato fatto con Rai Educational, dove si vedono tutte questi nostri morti. Ecco, io non lo posso fare soltanto. Assolutamente, ecco. D'accordo. Ecco, io le ricordo ai nostri radioascoltatori che questo, e adesso capirete perché le nomino alcune, che questo sondaggio è stato fatto presso il Liceo Scientifico Ernesto Basile, l'Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta, l'Istituto Magistrale Regina Margherita. Questi sono a Palermo, non solo questi ma anche d'altri. È stato condotto anche in una scuola media superiore di Catania e in un istituto tecnico commerciale di Varese. E questo perché lo dico? Lo dico perché risparmio un altro pugno nello stomaco alla signora Maria Falcone con un altro dato che a questo punto non oso nemmeno registrare, perché è veramente un altro pugno nello stomaco, ma veniamo a Varese. Allora, una mia fermissima convinzione, che i radioascoltatori, chi segue le mie inchieste sul Sole e il blog lo sa, lo vado ripetendo da anni, una mia fermissima convinzione è che oggi l'educazione alla legalità e al contrasto non parolaio ma nei fatti a Cosa Nostra, alle mafie in questo paese, deve essere condotto al nord, perché è al nord che le mafie oggi prosperano. E allora le chiedo, signora Falcone, mi smentisca pure se crede, ma che cosa sta facendo lei e cosa stiamo facendo noi tutti per far capire che è il nord la frontiera di attacco all'economia e alla società delle mafie? Beh, io dico, voglio innanzitutto puntualizzare una situazione, che le mafie, le organizzazioni criminali, i loro affari, diciamo la loro sede principale, dove hanno in massima parte il dominio del territorio, è nei paesi meridionali, da Napoli in giù. Ecco, però chiaramente, questo lo dico in tutte le scuole, che gli affari, i mafiosi li fanno invece nelle zone ricche. Certo. E posso darle invece una bella notizia, che l'altro giorno a Modena, in una scuola con 1300 studenti, un'assemblea eccezionale, una ragazza mi ha detto, che era venuta l'anno scorso pure a Palermo con la nave della Licata, e mi ha detto: io ho capito che la mafia non è un problema dei siciliani, ma è un problema di tutti noi. Ecco. Quindi accanto a quelli che dicono di non conoscere Chinnici o Costa, ci sono altri, a poco, però è un percorso. Io talvolta, vedendo le mie, quest'anno sono 520 le scuole con cui abbiamo creato questo progetto, pensando che 7 anni fa erano soltanto 20, quindi non c'è proporzione, diciamo, per una percentuale veramente enorme di aumento, però continuo a dire, io sola, la fondazione da sola, non certo, può arrivare a creare... Allora, io ringrazio la signora Falcone per il suo intervento e vorrei sottolineare quello che ha detto. Modena è importante perché Reggio Emilia, Modena, l'Emilia Romagna sono da sempre terreno di conquista per le mafie, cosa nostra indubbiamente, ma basti pensare a quello che ha fatto l'Andrangheta con le 'ndrine di Cutro in provincia di Crotone nella colonizzazione dell'economia della ricca Emilia Romagna. Domani, sabato 23 maggio, lo dico soprattutto agli studenti, ai ragazzi, fermatevi un momento, navigate su internet, bene, andate sul sito fondazionefalcone.it, anche soltanto per leggere la storia di questo magistrato e di altri che come lui hanno perso la vita per la legalità di tutti noi. Io ringrazio la signora Falcone, ringrazio gli ospiti delle puntate precedenti, grazie a regia Peter Bescapè, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.